Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, insergante il traghettatore. A proposito di bentrovati, la puntata è dedicata al benessere, quindi abbiamo preso la parola benessere e l'abbiamo spaccata in due. Per la verità è un lavoro che non abbiamo fatto noi, ma l'ha fatto ICON, che organizza da 10 anni le giornate di Bertinoro, che sono un po' il luogo dove si confrontano, si affrontano i temi e i problemi della cooperazione, del no profit, dell'economia civile. Siamo a Forlì, nella facoltà di economia, e questo appuntamento ha anche delle originalità. Performance economica e progresso sociale. Ecco le basi per fondare la società del benessere grazie al non profit. C'è un'aria nuova nell'universo del non profit. È finita la guerra dei poveri. Le associazioni hanno capito che per essere efficaci devono fare rete. A proposito di benessere, il giro di affari delle Salus per Aquam è in forte crescita. Panacea di tutti i mali e, perché no, anche del nostro turismo? In realtà il tema del benessere ha anche una sua, per questo parlavo di originalità, ha un suo slogan, diciamo, che è un'economia che persegue la felicità delle persone. Detta così è veramente bella. Giorgio Triani, autore, vi ricordo, dell'Ingorgo, già una vecchia conoscenza di Ferry Boat. Ciao professore. Salve. Quindi la felicità delle persone si può perseguire, insomma, ma non è la ricchezza tout court, non è quella degli oggetti, non è quella del consumismo compulsivo, quindi è musica per le tue orecchie. Sì, direi che l'idea che ci sia un benessere che non sia totalmente sganciato dal denaro, perché viene in mente il vecchio adagio che prima la salute, però poi vengono i soldi, quindi ecco, non lo ridurrei al niente il tema economico, però sicuramente sono parte da quell'aspetto, si rende conto che ci sono tanti aspetti materiali, in questo caso anche il benessere credo ha una sua materialità, e sentire il proprio corpo, sentire le proprie sensazioni, sentire buoni profumi, sentire, e dicendo questo anche presente che un rapporto recente di Legambiente diceva che più del 50% degli italiani vive in luoghi in cui è assediato da rumore, odore di fritto, odore di qualsiasi tipo. Se uno valuta questo aspetto si rende conto che i soldi davvero non sono tutto e non è una frase fatta. Ecco, in questo caso il ruolo del no profit è il ruolo della felicità delle persone, penso, ma ne parleremo fra poco anche con i protagonisti di questo studio di ICON, e anche nel senso del soccorso, della solidarietà verso le persone. L'economia del no profit punta al benessere, da questo punto di vista, di chi ha bisogno. Certo, sì, ma io credo anche qua che stiamo scoprendo cose antiche, ovvero che far del bene fa bene, che è la versione direi un po' ricca, un po' esibizionista, quella che so dello sponsor, di colui che in un qualche modo aiuta gli altri ma intanto esibisce le proprie ricchezze, questo è l'aspetto più opportunista, però in un qualche modo anche questo ti dice che se tu spendi i tuoi soldi e sponsorizzi delle attività, possibilmente delle attività positive, hai dei ritorni, ma li hai anche se come persona tutti i giorni ti comporti, direi, in modo buono, e buono di nuovo senza caricarla del significato negativo del buonismo. A persone buone secondo me vanno rivalutate questi aspetti. Se poi dopo fai del bene, del buono, e lo fai assieme a tanti altri e ti metti in rete, come dicevi prima, credo che il benessere di tutti aumenta. Adesso della rete ne parleremo proprio con Stefano Zamagni. Professore, buongiorno. Buonasera, ragione lei, il comitato scientifico di ICON, lei è anche un esimio, insomma, è professore dell'economista dell'Università di Bologna e tante altre cose, ma in questo caso la stiamo coinvolgendo innanzitutto su questo rapporto tra felicità e indicatori del benessere. Lei conosce questa ricerca e quindi il rapporto fra queste due entità, l'economia che persegue la felicità delle persone, come è stato affrontato, come l'avete analizzato? Quest'anno celebra la 10ª edizione delle giornate di Bertinoro dell'economia civile. L'idea sostanzialmente che oggi viene dibattuta e lo sarà il prossimo ottobre è antica ed è tipica di quel programma di ricerca che è tipicamente italiano, l'economia civile. L'idea di base è che la felicità è legata soprattutto alle relazioni. ma non solo alle relazioni durante il tempo libero, questo lo dicono tutti, lo dicevano anche quelli delle altre scuole di pensiero economico, ma è soprattutto legata alle relazioni dentro i luoghi di produzione del lavoro. Non dimentichiamo che l'impresa, quale che essa sia, prima di essere un luogo di produzione di beni, di merci, di servizi, è luogo di formazione del carattere umano, perché noi occupiamo circa 2/3 del nostro tempo là dentro, certo, nella impresa. Quindi, se noi vogliamo perseguire la felicità pubblica, è inutile cercare di dare più soldi per consentire alla gente di occupare al meglio il proprio tempo libero. Questa è una pia illusione, perché 2/3 del tempo sono occupati sul luogo di lavoro. Allora, l'idea dell'economia civile è tutta qui. Rendiamo civili i rapporti di lavoro dentro l'impresa. Le persone saranno più felici, renderanno di più, avranno una più alta produttività e saranno contenti tutti. Invece noi ci stiamo imbarbarendo, perché i luoghi di lavoro sono luoghi di alienazione, mobbing, di contrasto, di controversie. Sì, sì. Poi, per tenere ferma, come si dice in gergo un po' banale, la piazza, aumentiamo anche a volte i salari, aumentiamo i fringe benefits, diamo i bonus, eccetera, illudendoci che in questo modo la gente possa migliorare la propria condizione, situazione di vita. È una bella illusione, perché quando uno dal lunedì al venerdì si aliena perché litiga dal mattino alla sera o non è soddisfatto, è inutile che poi al sabato e alla domenica vada a spendere i soldi che ha guadagnato andando qua o di là. È un circolo... quei giorni non compenseranno. Ecco, non compenseranno i contrasti. Ecco, Giorgio Triani, questo un po' ci richiama al tuo ingorgo, cioè il professor Zamagni sta parlando di quello che è tutto sommato il consumismo compulsivo, inteso proprio come ventilazione forzata degli stili di vita, senza liberare le risorse, le energie e i sentimenti. Sì, sì, direi che è molto difficile, credo però che come società nel suo complesso, come grandi numeri, riusciamo a liberarci di comportamenti e valori che sono stati costruiti negli ultimi 50 anni e che hanno posto poi alla fine il denaro e dunque tutto ciò che puoi prendere con il denaro come gli aspetti di riuscita sociale, di riuscita personale, di soddisfazione terrena proprio. E quindi credo si faccia molto fatica a tornare indietro. Il dato positivo è che delle minoranze virtuose o coraggiose, talvolta anche in modo costretto, stanno prendendo coscienza che facendo anche un'analisi seria tra costi e benefici ci si accorge che molte cose per le quali ci si impegna alla morte, allo spasimo, si sacrifica tutto, affetti, la famiglia, il tempo, le proprie passioni, non vale la pena probabilmente, e dunque si ricominciano a riconsiderare la scala delle priorità personali e di vita. Professor Zamagni, voi avete predisposto, non so a che punto è adesso, i risultati di questa ricerca. È ancora all'inizio. Fate riferimento ad una griglia di indicatori. Esatto, la ricerca, lo scopo è quello di arrivare ad una metrica di tutto ciò che non è misurabile con il dato quantitativo, cioè dire i prezzi di mercato. Ci sono beni e servizi che non transitano per il mercato e che ognuno di noi è disposto a considerare come di primaria importanza rispetto all'obiettivo della felicità. E allora l'obiettivo nostro è quello di dare un contributo all'Istat, che arriverà presto o tardi, io preferisco presto che tardi, a definire, senza negare il PIL resta, bisogna affiancare all'indicatore del PIL che misura tutto ciò che è merce, che passa, che transita per il mercato, quegli altri beni, pensiamo ai beni relazionali, ai beni immateriali, pensiamo alla cultura, eccetera, però per tutto questo ci vuole una metrica. Lo scopo della ricerca di ICON è esattamente quello di arrivare, possibilmente in tempi brevi, a definire una metrica del genere. Insomma, una sorta di felicità interna lorda, insomma, no? Di valutazioni. Se vogliamo chiamarla così, però la gente ormai ha cominciato a capire che non è un problema di parole, di slogan, ma è di qualcosa, perché quando la gente è sempre più sazia e meno e disperata, allora si chiede che c'è qualcosa che non va in questo modello. Sì, insomma, comunque anche questi famosi valori che tutti i giorni ci vengono un po' imposti dai media su quanto stiamo crescendo, no? Anche la parola crescita va rivisitata, non è mica detto che crescere, no? Che ne so, crescere in automobili per esempio vuol dire crescere in inquinamento e intasamento, no? Non è quindi un valore sviluppo, positivo. Non di crescita, perché sviluppo è parola che deriva dal latino, esse è l'esse latino privativo, sviluppo vuol dire legame, parlare di sviluppo vuol dire parlare di libertà, sviluppo è tutto ciò che toglie i legami e che quindi dilata gli spazi di libertà. E invece noi siamo abituati tutti i giorni, Giorgio, tutti i giorni, vabbè, anche lo stesso indice di borsa, tutto sommato non è altro che un valore, come dire, metrico decimale, che ci condiziona forse la giornata, che ci porta a valutare no, quello che il professore chiama giustamente sviluppo e non crescita in termini proprio algebrici. Sì, io osservo anche come siamo però dominati dai numeri, viviamo anche in una società quanto frenica, è stata detta, cioè che ha l'ossessione, la smania dei numeri, forse perché poi i numeri sono alla fine, come si dice, i numeri non sono delle opinioni, anche se in molti casi lo sono diventati e lo stanno diventando, però i numeri hanno questa, diciamo, questa apparente solidità. Forse oggi ce ne sono troppi, però su un dato numerico diventa poi alla fine quello più facile da misurare, perché quando vengono evocati beni relazionali, anch'io concordo su ciò, ma misurare la qualità secondo me è un'operazione molto complessa, anche perché anche il concetto di qualità, come altre parole, creatività, sono diventati anch'essi svalutati dall'uso, quindi c'è anche una, come dire, una svalutazione del qualitativo. Cioè, non vorrei che alla fine, ma non lo dico per fare il furbo, che adesso in questa grande moda del scopriamo i beni relazionali, non basta con la quantità, giochiamo sulla qualità delle cose, ci fosse dietro magari un, dico così, qualche, non dico la truffa ideologica, ma che insomma di nuovo fossero in azione i soliti furbacchioni. E dice il professor Zamagni? Sì, sì, no, beh, infatti il punto è che occorre probabilmente da un lato togliere dal tema della felicità questo alone a volte mitico eccetera, e spiegare che la felicità è una cosa molto concreta. In secondo luogo stiamo parlando di felicità pubblica, non quella individuale che appartiene alla sfera personale e quindi ai gusti e alle preferenze dei singoli. Terzo, bisogna, ma qui è colpa forse di noi economisti, spiegare la differenza tra utilità e felicità. Il fatto è che fino a 30-40 anni fa felicità e utilità procedevano di pari passo. Massimizzare l'utilità e quindi la produzione di beni, di merci, equivaleva anche a migliorare gli indicatori di felicità. Oggi, per la prima volta nella storia dell'Occidente, è accaduta questa divaricazione, che si può aumentare l'utilità, e in effetti quando aumenti il PIL, cosa vuol dire? Vuol dire che aumentano le utilità, però non la felicità, perché si è creato questo trade-off, cioè questa antinomia tra utilità e felicità. Spiegare queste cose alle persone, soprattutto ai giovani, i giovani le capiscono subito, perché confrontano i motorini, gli aggeggi che hanno a disposizione con quelli delle generazioni precedenti, però scoprono che oggi sono meno felici, anche se hanno più utilità dei loro coetanei delle generazioni passate. A bordo con noi Giorgio Triani, scrittore, giornalista e sociologo, e Stefano Zamagni, economista, che adesso ricoinvolgiamo in un'altra veste, quella di presidente dell'Agenzia per le Onlus. Un rapporto di ricerca della Fondazione Cariplo evidenzia un terzo settore non formato da un pulviscolo di associazioni che operano isolate, ma che, novità assai rilevante per questo mondo, possiedono una grande capacità di fare rete. Tanto da poter ipotizzare una nuova linea di discrimine, non più tra grandi o piccole organizzazioni, ma tra quelle in rete e quelle isolate. La ricerca ha contato 53 reti nazionali aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore, 94.000 enti di base, 350.000 lavoratori, 1,6 milioni di volontari, un movimento economico pari a circa 8 miliardi di euro. Non è la prima volta che leggo, ascolto in questo caso, di questi numeri, rimango sempre basito sull'enormità della portata del terzo settore nel nostro paese, che però stride fortemente con l'enormità del vuoto mediatico, del vuoto divulgativo, culturale che circonda, cioè non se ne parla mai, e sono dei fantasmi come delle nuvole passeggere che per il resto del mondo sembrano non esistere, professor Zamagni. È vero. Per la sua osservazione che è pertinente. Il fatto è che siamo italiani, perché noi siamo fatti così. Forse la gente non sa che il non profit, o il terzo settore, come lo si vuole intendere oggi, è nato in Italia all'epoca dell'undicesimo secolo. le prime forme di associazionismo nascono tra il 1100 e il 1200. Poi la gente crede che il terzo settore o il non profit sia un'invenzione americana, che è una sciocchezza, perché non si conosce la storia. Il fatto è che noi italiani non sappiamo valorizzare le nostre radici, quindi ad una realtà di organizzazione della società civile così articolata e così direi ricca di messaggi oltre che di realizzazioni non corrisponde un'adeguata copertura mediatica. Negli Stati Uniti di America, direi, basta prendere un quotidiano qualsiasi, almeno un quinto degli spazi è dedicato all'azione di questa o di quell'altra fondazione, agli interventi di quella ONG o di quell'altra e così via. In Italia a malapena si riesce a fondare in qualche quotidiano, non parliamo poi della... Meno male che c'è Ferribot adesso, ma battute a parte, comunque fare rete, questo fenomeno che registra la ricerca di Fondazione Cariplo è una bellissima premessa per uno sviluppo ed un rafforzamento del no profit. Esatto, quella è una ricerca molto importante, tecnicamente fatta molto bene, che mostra come una delle caratteristiche del terzo settore italiano è proprio la sua struttura, starei per dire ontologica, di tipo reticolare. Mentre ad esempio non è la stessa cosa in altri paesi, noi pensiamo agli Stati Uniti, abbiamo le grosse fondazioni, ognuna delle quali va per conto proprio, sono talmente grosse, pensiamo alla fondazione Bill Gates, che ha una potenza di fuoco inimmaginabile, mentre in Italia, proprio perché le nostre organizzazioni sono a valenza più ridotta, e per ragioni legate al modello che è basicamente di tipo associativo e non fondazionale, l'esigenza di fare rete è in repsa. Ecco perché il nostro mondo del terzo settore è più facilitato in questo rispetto a quello di altri paesi nel realizzare quelle che noi chiamiamo economie di rete. Grazie professor Zamagni, sappiamo che lei deve partire, quindi la ringraziamo moltissimo anche per la solita, come dire, facilità con cui il professor Zamagni riesce ad esprimere concetti complessi. Professor Triani, questo vale ovviamente anche per te, per carità, ci mancherebbe. È interessante però, e mi piace che la tua presenza contrasti in qualche modo, ovviamente su un piano di ingaggio intellettuale, col no profit, cioè l'ingorgo e il no profit, il consumismo compulsivo e questo sviluppo incredibile di 1.600.000, vi ricordo, volontari in questo paese che fanno del no profit un'attività di base. Secondo i viaggiatori della community di TripAdvisor, il miglior centro termale in assoluto anche per il rapporto qualità-prezzo è Merano in Trentino Alto Adige. In Italia anche Abano Terme e in generale la provincia di Padova, Bolzano e Montecatini. Nel mondo spiccano la notissima Bali in Indonesia e Phuket in Thailandia oltre Bangkok. Due mete recentemente entrate nella Hit Parade sono Budapest e Istanbul, tra il fascino storico dei paesi dell'est e il fascino della notte d'Oriente con prezzi davvero da favola. Restiamo, professor Tajani, nel campo del benessere. Questa volta possiamo anche banalmente citare Mens Sana in Corpore Sano, insomma. Direi di sì, anche perché l'acqua, io trovo che esempio sull'acqua, sempre considerata una cosa banale, scontata, pensavo giusto oggi alle località di mare che per anni ancora oggi considerano tutto il divertimento accessorio come la vera attrattiva di un posto e dimenticano invece che anche negli ultimi anni, non tanto alla ricerca delle bandiere blu, ma il mare, cioè la qualità del mare, è diventato un elemento molto forte. Ecco, come nei posti in cui il mare è bello e pulito. Come secondo il professor Antonio Bettero, ma noi siamo convinti che abbia ragione, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Padova, professore, eccoci, salve. Buonasera. Secondo lei, ma insomma, l'acqua e quindi le salus per acqua, le spa famose, sono la base di un termalismo moderno che può diventare un elemento forte, economico, forte, trainante, quindi nel bello, nel bene, ma anche nell'utile all'economia di questo paese. Questo sicuramente, solo che bisognerebbe distinguere quelli che sono gli effetti benefici dell'acqua da tutte le altre, diciamo così, sollecitazioni di carattere turistico e di benessere. La cosa importante di questi anni è che l'acqua ha un valore energetico oggi ben definito, quindi il problema è quello di come poter sfruttare questo valore energetico attraverso la pelle e le mucose. È possibile intervenire dal punto di vista tecnologico per aiutarla ad attraversare questi distretti. Allora sì, a questo punto noi possiamo avere degli effetti benefici anche misurabili. Allora, se poi trasferiamo questo concetto nelle spa, nelle terme, dove abbiamo anche acque termali che hanno delle composizioni chimico-fisiche interessanti, si può aumentare la percentuale utile di queste, aiutando ad attraversare questi distretti e misurare prima e dopo quelli che sono gli effetti. Questo è il termalismo cosiddetto di funzione. Questo vuol dire anche, come stiamo accennando, che si potrebbe disegnare o ridisegnare o comunque avere un nuovo percorso nella mappa turistica del nostro paese, che ne è già, come dire, ce ne sono già tantissimi. Noi qui a Padova ci lavoriamo da parecchi anni e adesso possiamo costruire una rete integrata che sia interconnessa con l'università. Attraverso questo marker che noi abbiamo sviluppato è possibile che io faccia un controllo della mia pelle a Budapest, per dire, il segnale arriva a Padova e gli ritorna il referto stampato subito, però la misura deve essere rigorosa e bisogna conoscere esattamente che cosa gli mettono addosso, che cosa gli danno. Il nostro termalismo, il nostro intendo dire italiano, è all'avanguardia nel mondo anche dal punto di vista dell'intensità della diffusione sul territorio? In Italia ci sono 360-370 terme associate, per cui l'Italia ha una diffusione enorme, una storia, ma il problema di cui soffre l'Italia, come altri paesi, ma l'Italia in particolare, è che non ci sono protocolli scientificamente accreditati. Quando non ci sono i protocolli, noi possiamo solo dire fa bene, sto bene, mi sento bene, ma non possiamo dire quanto, non possiamo dire come, capisce? Quindi andiamo in questi posti, facciamo delle cose bellissime, ma vorremmo investire in salute e in benessere e avere una risposta concreta, precisa. Questo non riguarda solo. Questo non è solo un problema italiano, diceva, c'è anche le terme in altri paesi, tra quelli che abbiamo citato. L'Italia è all'avanguardia per quanto riguarda la fangoterapia, in particolare il compressore di Avona Montegrotto, la più grande stazione europea da questo punto di vista, ha una tradizione consolidata. Però dal punto di vista di protocolli, dello sviluppo di protocolli ben definiti, siamo abbastanza indietro. Anche qui in Italia si comincia dal Veneto, si comincia dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, però mancano ancora i protocolli, tant'è vero che noi abbiamo una legge, la 323 del 2000, che introduce il concetto di scientificità, perché il Ministero della Salute vorrebbe, se no, non dare più il ticket. Lei sa che c'è un ticket di fangoterapia. Adesso si dovrebbe arrivare a questo punto: se tu non mi dimostri che fai delle terapie, dei protocolli ben precisi, non ti do più il ticket. Questo è un incentivo, una cosa importante. E questo sarebbe un elemento regolatore forte. Grazie professor Bettero di questo breve viaggio, arrivederci. Arrivederla, buonasera. Giorgio Triani, alla conclusione di questa puntata, che abbiamo fatto un piccolo viaggio con il nostro ferribot nel benessere, c'è nel tuo libro, nell'ingorgo, il concetto di felicità? L'abbiamo visto attraverso Icon, l'abbiamo visto nel fare rete del terzo settore, nel benessere fisico puramente, come dire, tattile del corpo. E il benessere dell'autore dell'ingorgo, cioè nell'ingorgo c'è un benessere del consumismo comunque si può salvare o è proprio da buttare via tutto? No, beh, come sempre bisogna con giudizio, come si dice, non bisogna buttare via tutto, cioè non dobbiamo dimenticarci, non possiamo pensare che tutti noi, l'umanità, stesse meglio, che so, 70 anni fa e che oggi stiano meglio con i tre quarti di umanità che magari non hanno nemmeno l'acqua. Per stare all'acqua, non dimentichiamoci che tre quarti dell'umanità non hanno diritto all'acqua, per andare all'acqua devono fare qualche chilometro con la brocca in testa, quindi no. L'unico problema nostro, credo, è quello di recuperare, già consumismo, come tutti gli ismi, è sospetto. Il consumo, in quanto consumo, lo diceva peraltro anche Marx, non sono un economista, ma lo ricordo sempre a tutto, che non c'è produzione senza consumo, non c'è consumo senza produzione, quindi i due termini sono inscindibili. Sino a quando c'è una produzione, quindi lavoro, si produce beni, oggetti, merci, perché vengano consumati. Il problema è la misura di questo consumo, che da un po' di tempo è andata abbondantemente oltre in tutti i sensi, perché tutti i settori sono sul troppo, c'è troppo, troppo di tutto. Troppo anche di tempo, è finita, Ferri Bot vi lascia anche per questa puntata, grazie Giorgio Triani. Grazie a te. Grazie a Anita Panizza in redazione e a Paolo Colleoni in regia. Il programma, vi ricordo, è su www.radio24.it. A risentirci.